22 settembre, 23 settembre, cioè il prossimo sabato e la prossima domenica, il progetto Crazy dà appuntamento presso gli spazi di Bauhaus Network in via Sebastiano Serlio, quindi nel parco del DLF, per due giorni di confronto e di discussione che per noi saranno di fatto, diciamo, il nostro debutto in società. La due giorni è articolata attorno a tre temi fondamentali che, diciamo, anche nel titolo della due giorni, Unsafe Words, perverso il valore queer, abbiamo appunto definito questi concetti, queste parole come insicuri, perché sicuramente sono per noi, e non solo per noi, dei concetti, delle categorie affascinanti, ma estremamente complessi nel loro significato, sia da un punto di vista, diciamo, teorico, analitico, ma anche dal punto di vista proprio dei comportamenti sociali e delle pratiche che li definiscono. E sono tre temi, diciamo, che in sé raccolgono altre parole che per noi sono importanti, come saperi, riproduzione, sostenibilità, autonomia, memoria, organizzazione. La due giorni sarà suddivisa in questo modo: sabato mattina tra le 10 e le 13 ci concentreremo su temi della precarietà, del lavoro gratuito, delle forme di sfruttamento del lavoro, sia le vecchie forme di sfruttamento del lavoro che quelle nuove, come nel caso del lavoro digitale, e lo faremo a partire da diciamo una genealogia marxista femminista che fa riferimento all'esperienza dei comitati per il salario al lavoro domestico, che si sono diffusi in Italia negli anni 70 e che poi hanno dato vita a una rete transnazionale. E per noi questo, diciamo, è il punto di riferimento pratico teorico per poi arrivare alla proposta di sciopero dei generi e di generi e di un reddito di autodeterminazione che anche, diciamo, nel piano femminista di Non Una di Meno viene individuato come uno strumento per mettere in discussione la divisione sessuale del lavoro, ovvero la distribuzione asimmetrica, ineguale tra donne e uomini, tra donne migranti e donne native nel lavoro di cura. E si tratta appunto di fatto di una proposta di reddito di base incondizionato e universale, che però parte dall'idea che è necessario affermare la centralità della riproduzione sociale in una prospettiva anticapitalistica. E dunque, diciamo, la tesi che andremo a discutere, su cui ci andremo a confrontare, è che dagli anni 70 a oggi di fatto la riflessione e le pratiche femministe queer hanno elaborato degli strumenti pratici, anche utili per le lotte di tutte e tutti, in modo da resistere all'intensificazione generalizzata dello sfruttamento neoliberista del lavoro. Nel pomeriggio invece abbiamo organizzato un laboratorio pratico attorno al concetto di archivio, proprio perché diciamo, per noi l'idea dell'archivio è un'idea fondante, istituente del progetto di Crazy, che appunto ha attraversato tutta l'esperienza di Atlantide, che da sempre ha avuto l'intenzione di costruire, diciamo, un luogo di, appunto, archivio, di centro di documentazione, ma che anche proprio per la questione degli spazi in cui ha abitato per 17 anni non è riuscita a mettere in pratica, ma l'idea fondamentale è che l'archivio non debba essere un luogo, diciamo, di memoria, quindi di museificazione delle nostre esperienze, ma piuttosto un archivio del presente, quindi un archivio, diciamo, anche degli affetti e delle esperienze personali e politiche di lotta e conflitto femminista e transfemminista queer, e che quindi non è solo un luogo in cui conservare testi e o oggetti più o meno multimediali che solitamente si possono trovare in un archivio. E quindi anche questo laboratorio, che appunto si svolgerà sabato pomeriggio tra le 14:30 e le 17, è un laboratorio che, a partire da alcuni oggetti presenti nel nostro archivio che stiamo, diciamo, costruendo ancora, si costruiscano delle narrazioni libere da parte appunto di chi parteciperà a questo laboratorio, proprio perché pensiamo che non ci possa essere né ci debba essere una storia unica, lineare, originale da raccontare, che invece appunto le storie possono essere tante, possono essere diverse, tante quante le persone che l'hanno vissuta e che continuano a dare continuità a queste esperienze di auto-organizzazione politica transfemminista queer. Domenica invece, la domenica mattina, mattina tra le 10 e le 13 affronteremo una questione che sicuramente è molto difficile da affrontare e anche un po' spinosa, perché diciamo nei percorsi e nelle esperienze sociali di auto-organizzazione non c'è mai stata l'abitudine a parlare collettivamente di denaro, e anzi abbiamo spesso riscontrato una sorta di tabù a discutere del denaro e di come recuperare denaro, di come finanziarsi, autofinanziarsi, eccetera. Eppure appunto sappiamo benissimo che il denaro serve e che serve assolutamente anche per costruire dei percorsi di autonomia e per rendere sostenibile l'attivismo, senza che questo sia appunto necessariamente basato sull'autosfruttamento e sul lavoro gratuito. In particolare diciamo anche che proprio per un progetto di formazione, di autoformazione, di produzione e di circolazione dei saperi fuori appunto dalla logica delle istituzioni pubbliche e private, invece è fondamentale porsi alcune domande collettivamente attorno al denaro, e in particolare vogliamo confrontarci con le esperienze che condivideranno con noi questa giornata, questa discussione, come sia possibile mantenere un'autonomia decisionale e progettuale quando invece c'è un rapporto con le istituzioni accreditate e con eventuali finanziatori, e come poi invece sia l'organizzazione interna sia le attività vengano poi condizionate dalla ricerca della sostenibilità economica. E infine, sempre in questa sessione, diciamo, discuteremo anche la questione dell'autonomia dal punto di vista dello spazio fisico, perché Krazy nasce dopo lo sgombero di Atlantide, e dunque diciamo per noi che siamo state sgomberate personalmente dal comune di Bologna e che anzi avevamo inserito il progetto di centro di ricerca e archivio nella proposta appunto progettuale che riguardava il trasferimento dagli spazi del Castello di Porta Santo Stefano, che sono tuttora chiusi e abbandonati dallo sgombero dell'ottobre 2015, allo spazio invece di Via del Porto, su cui avevamo lavorato per più di un anno, diciamo, nel confronto con il precedente assessorato alla cultura. E quindi diciamo per noi, a partire da questa esperienza, è evidente che è problematico soprattutto pensare di avere un rapporto con le istituzioni pubbliche, e su questo ci confronteremo anche con le compagne di Macao che parteciperanno alla Due Giorni e che appunto sono sotto sgombero nonostante, o forse proprio perché, abbiano portato avanti una proposta molto innovativa e inedita di acquisto collettivo dello spazio dell'ex Borsa del Macello, nel quale il progetto di Macao è vissuto e si è sviluppato negli ultimi 5 anni.